Ho passato la notte sul pavimento, con la faccia da schiaffi e un cuore di cemento, perché forse ho sentito il tuo profumo in metro. Io ho scritto il tuo nome alitando sul vetro, ma io farei per te la coda a un concerto a fine luglio anche senza biglietto. Passerei il sabato a cercare parcheggio all'ora di punta tra le vie del centro. A cosa serve l'elettricità se dentro i tuoi occhi c'è già un Luna Park? E mentre un'altra estate se ne va, noi ci scordiamo la felicità. Chissà se li hanno finiti i lavori sotto casa tua, che per il rumore non dormire. E adesso che scrivere canzoni mi fa sentire scemo, perché la mia voce senza le tue orecchie è come un aereo senza cielo. Ma io farei per te la coda a un concerto a fine luglio anche senza biglietto. Passerei sabato a cercare parcheggio all'ora di punta tra le vie del centro. A cosa serve l'elettricità se dentro i tuoi occhi c'è già un Luna Park? E mentre un'altra estate se ne va, ci scordiamo la felicità. Sarai come Cagliari dopo le sette, quando in spiaggia non c'è più la gente. Un paio di Nike che dura per sempre, il replay di una stella cadente. A cosa serve l'elettricità se dentro i tuoi occhi c'è già un Luna Park? E mentre un'altra estate se ne va, noi ci scordiamo